Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siete in ascolto di 451 intersezioni e un caro saluto da Elisio Scarpa che condurrà la puntata di questa sera. Lunedì scorso siamo mancati, anzi sono mancato, e succederà la stessa identica cosa anche il prossimo lunedì, dato che siamo in pieno ponte del 2 giugno, non che mi interessi particolarmente il 2 giugno come celebrazione mi sono dimenticato ormai la tradizione religiosa. Comunque queste celebrazioni nominali sulla festa della Repubblica, dell'esercito e tutto quello che proprio non ci appartiene come 451. Ricordo chiaramente che il nostro spazio radiofonico è composto da due puntate radiofoniche, sempre a Radio Città Fujiko, questa del lunedì sera dalle 20 alle 21, 451 intersezioni, ma anche il mercoledì notte da mezzanotte alle 2 di notte con il compagno amico Max Macchia che conduce 451 frammenti sonori. Diceva appunto, noi di 451 certamente siamo molto distanti da queste commemorazioni, ma per problemi e questioni personali utilizzerò quel ponte, dunque non sarò in radio. Ci rivedremo dunque tra due lunedì per ripartire sui nostri percorsi ad ostacoli di 451 intersezioni. E in questo bel clima generale, sempre più fascistoide da parte di questo governo e non solo, in termini anche repressivi, abbiamo visto cosa è successo con il corteo Noexo, ma anche tutte le contestazioni che sono avvenute anche a Bologna rispetto alla presenza del premier Renzi e le bastonate e i feriti da cariche di polizia, E su questo voglio fare un piccolo, diciamo, appunto e accenno all'inizio della trasmissione, prima di partire con il nostro tema di stasera, che sarà anche molto distante rispetto a queste dinamiche di tipo sociale e politico, che questo clima repressivo ha portato ancora altri provvedimenti abbastanza pesanti da parte della Procura della Repubblica di Bologna, che ha praticamente comminato ben 5 arresti domiciliari nei confronti di 5 compagni di Obo, che già precedentemente un paio erano stati già colpiti da questo assurdo provvedimento che è ancora in vigore, ancora retaggio del codice Rock, retaggio del fascismo, cioè il divieto di dimora a Bologna. Dunque già due compagni precedentemente erano stati, diciamo, sono obbligati a non mettere piede a Bologna, a trasferirsi in un'altra città, e adesso sono arrivate circa una settimana fa anche questi provvedimenti molto molto pesanti di arresti domiciliari per degli scontri avvenuti qualche mese fa con la presenza di un ministro di questo caro governo. Ci sono state delle contestazioni alla spisa a Bologna e 5 sono stati appunto portati agli arresti domiciliari. Massima chiaramente solidarietà da parte di 451 rispetto ai compagni, e soprattutto denunciamo anche noi da questi microfoni il clima pesantemente repressivo nei confronti di ogni contestazione che sta al di fuori ovviamente dalle istituzioni, dal Parlamento, da tutti gli organi che decidono sulle nostre spalle tutto questo bel sistema sociale, economico e di controllo che sta avvenendo in questo caro paese gestito da questo personaggio che ricorda sempre di più veramente dimensioni del ventennio. Non a caso l'ultima battuta anche nei confronti dei sindacati che stanno facendo delle timide oltretutto proteste, parlo soprattutto dei confederali, non certo quelli di base, addirittura ha auspicato un sindacato unico. Ecco, un altro tassello dopo il preside unico della scuola, dopo il Job Act, dopo le repressioni nei confronti delle contestazioni sull'Expo, è arrivata anche il sindacato unico. Insomma, siamo in un bel clima sicuramente. Bene, dopo questo piccolo excursus, ma anche dovuto nei confronti di questi compagni che hanno ricevuto dei provvedimenti veramente molto molto pesanti, infatti poi è partita anche una campagna da parte del collettivo sostenuta da docenti, da intellettuali, appunto intitolato Libertà di Dimora, andatevi a vedere su internet, internet libertà di dimora e troverete poi tutti i collegamenti, Facebook, adesioni e via di seguito, perché comunque in ogni caso è un provvedimento molto molto grave. Poco dopo, per coloro che non lo sapessero, dopo gli arresti domiciliari c'è proprio la galera, dunque siamo molto vicini a dimensioni veramente pesanti. E stasera partiamo e ci allontaniamo, diciamo, da questo nuovo millennio, dal 2015, ce ne andiamo veramente molto lontano, perché partiremo con un autore, un compositore, un genio vero e proprio musicale della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Parliamo di Erik Satie, che aprirà il nostro percorso di stasera intitolato Alterazioni pianistiche. Ovviamente affronteremo e cercheremo di percorrere in questo primo capitolo, sicuramente ne affronteremo altri, il tema delle sperimentazioni a livello pianistico, non solo compositivo, concettuale, ma anche dal punto di vista delle trasformazioni proprio fisiche, dunque i piani preparati, tutto ciò che ha attraversato la sperimentazione soprattutto del Novecento, con musica contemporanea, jazz più sperimentale, avanguardia pura, ma anche attraverseremo i canali più legati chiaramente alla musica minimalista e contemporanea. In questo Erik Satie aprirà, perché è stato veramente quasi l'antesignano di un certo minimalismo, senza saperlo, con le composizioni tra l'Ottocento e il Novecento, estremamente avanti, veramente con gli anni, con i decenni, con i secoli, potremmo dire ancora estremamente attuale. Apriremo con lui da un'opera della fine dell'Ottocento, esattamente Le Filles d'Étoile, che io il francese proprio non lo mastico per niente, per cui scusatemi se la pronuncia è stata terrificante, e apriremo con un estratto di questa opera tratta da un cofanetto splendido composto da ben 10 CD che la Deutsche Grammophon ha realizzato nel 2001 con al piano un grande che abbiamo visto anche qualche anno fa qua a Bologna a un festival musicale bolognese, Stephen Schleiermacher al pianoforte, straordinario anche nella sua interpretazione delle composizioni del grande Erik Satie. Apriamo così dunque il nostro percorso di stasera, Alterazioni pianistiche, capitolo 1, Erik Satie. Thank you. Siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato il grande Erik Satie, che sentiamo ancora in sottofondo, da quest'opera del fine Ottocento, importantissima nell'ambito della musica d'avanguardia, nelle sperimentazioni compositive, ma anche sulla dinamica del suono. L'attenzione al suono di Erik Satie è stata assolutamente fondamentale anche nelle sperimentazioni che poi si sono succedute nel tempo, nel Novecento, legate ad Erik Satie. Basta ricordare il grande John Cage, ma tantissimi musicisti nell'ambito dell'avanguardia, della musica contemporanea e anche della musica minimalista hanno ricondotto il loro lavoro rispetto alle sperimentazioni di Erik Satie. Ricordiamo ancora Les Filles d'Étoiles, opera della fine dell'Ottocento, splendido lavoro che abbiamo sentito in apertura, e l'abbiamo mixato invece facendo un salto praticamente quasi di più di un secolo. Da Eric Satie siamo passati, abbiamo mixato con l'album Out of Noise, uscito nel 2009, del grande Ryuichi Sakamoto, che anche egli si è spesso riferito e basato sulle sue sperimentazioni al piano rispetto alle composizioni minimaliste o ante minimalismo di Eric Satie. Ryuichi Sakamoto, che in questo album splendido uscito nel 2009, Out of Noise, lo ricordo ancora, sperimenta oltre a composizioni tipo pianistico come quella che abbiamo ascoltato, dove le linee vengono praticamente ripetute, intrecciate su delle composizioni che possono sembrare alla primo ascolto estremamente ripetitive, ma in realtà questa ripetizione è costruita in un'ottica appunto di flusso, ma anche di elemento ipnotico e quasi ascetico a livello concettuale e anche a livello di ascolto e di percezione sonora. E anche Sakamoto dà molta attenzione al suono, alla dinamica, alle vibrazioni del tocco, al tasto del pianoforte, costruendo appunto questa composizione estremamente suggestiva che abbiamo appena ascoltato. E ora invece ci sposteremo dentro le alterazioni pianistiche di stasera attraversando un altro compositore importantissimo del Novecento, Morton Feldman, che si è mosso sempre nell'ambito della musica contemporanea, della sperimentazione, dell'avanguardia, ma in un'ottica compositiva differente, dove la dinamica oltre che la composizione viene sperimentata al massimo livello, con anche vere e proprie manipolazioni materiali e sonore del pianoforte acustico. Ce l'andiamo ad ascoltare da uno splendido lavoro uscito nel 1990. In realtà sono composizioni di Feldman datate 52, 53, 1963, 77 e 86, che sono riproposte e reinterpretate dalla pianista Marianne Schroeder, da questo ottimo lavoro uscito per l'etichetta At Art. Ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori estremamente importante di Morton Feldman, uscito nel 1977, intitolato proprio Piano, dove si può veramente ascoltare la maestria e la grande capacità quasi geniale di Feldman di costruire composizioni assolutamente spannanti anche nello svolgimento e nel corso dell'elaborazione compositiva. Ce l'andiamo ad ascoltare dunque Piano, 1977, dall'album Piano, dove Marianne Schroeder reinterpreta Morton Feldman. Morton Feldman dunque, e ovviamente buon ascolto. Thank you. Siamo rientrati in diretta, abbiamo dovuto sfumare questo splendido lavoro del grande Morton Feldman, ricordiamo ancora, da Works for Piano, lavoro uscito nel 1990 con l'interpretazione di Marianne Schroeder, anche perché la composizione era di circa 40 minuti, dunque non ce l'avremmo neanche fatta con il restante tempo rimasto della trasmissione. Splendido lavoro, estremamente intimista, estremamente rarefatto questo brano elaborato da Feldman, dove il momento topico avviene attraverso le pause, la dinamica del tocco al piano, dunque suoni riverberati che creano sicuramente un effetto particolarissimo, ma l'elemento proprio del silenzio, della pausa nella notazione che fa la differenza rispetto a questa composizione. Questo aspetto lo ritroveremo anche in altri autori che sicuramente presenteremo nelle prossime puntate di alterazioni pianistiche, anche perché l'universo delle sperimentazioni al pianoforte acustico dal Novecento fino ad oggi è veramente sterminato. Ci sono varie diramazioni che attraversano in parte la contemporanea, in parte l'avanguardia in senso puro, in parte anche elementi di sperimentazioni improvvisative al jazz, e si arriva anche agli elementi più legati al minimalismo che stasera stiamo affrontando già con due autori, e ritroveremo poi anche in parte nell'ultimo autore di questa serata che chiuderà il percorso del capitolo 1 di alterazioni pianistiche. E adesso andiamo a presentare un altro autore meno, diciamo, conosciuto, meno importante a livello di critici, a livello di pubblico e di appassionati, ma sicuramente anche gli comunque importante nella scena del Novecento, alla fine del Novecento, inizio anni zero. Parliamo di Christian Wolff, che ha avuto come suo amico, nonché anche in parte collaboratore, John Cage nelle prime sperimentazioni dei primi anni 60, per poi arrivare alle sue composizioni tra gli anni 70, 80 e 90, fino ad arrivare agli anni zero. In particolar modo andiamo a pescare di questo autore che non abbiamo ancora nominato, ma è Christian Wolff, musicista e compositore francese nell'ambito della musica contemporanea, ma non solo, nella sperimentazione al piano, da un'opera che appunto si chiama Early Piano Music, che racconta le prime sperimentazioni pianistiche della fine degli anni 50, inizio anni 60 di Christian Wolff, in particolar modo rispetto alla manipolazione materiale fisica dello strumento pianoforte con il piano preparato, che tra gli sperimentatori degli anni 50-60 iniziò ad emergere come manipolazione proprio dei tasti, dei martelletti, utilizzando oggetti, strumenti per alterare il suono del pianoforte morte e creando addirittura delle composizioni, lavorando direttamente con le dita e con altri strumenti sulle corde del pianoforte, dunque aprendo il pianoforte a coda e lavorando su queste dinamiche, su queste armoniche, su questi suoni particolari che si venivano a creare. E andiamo ad ascoltare proprio una traccia da questo lavoro uscito nel 2002 per la Matchless Recordings, un'opera proprio del 1957, For Piano with Preparation, è appunto una composizione per piano preparato. Ce l'andiamo ad ascoltare, dunque, Christian Wolff, un'altra faccia delle alterazioni pianistiche. Buon ascolto. Thank you. Qualche problemino tecnico succede qualche volta, soprattutto quando si cercano di mandare dei brani estremamente delicati, attenti al suono, alle pause, arriva subito l'errore. Dunque mi devo scusare con voi ascoltatori, perché chiaramente qualche nota che si sposta, qualche buco o pausa troppo ampio può sicuramente perdere e far perdere quel filo d'ascolto particolare di una trasmissione come questa, legata e dedicata alle alterazioni pianistiche. Siamo verso la fine di 451 intersezioni. Abbiamo ascoltato questo splendido altro lavoro di manipolazione, di sperimentazione al pianoforte di Christian Wolff. Ricordiamo ancora Early Piano Music for Preparated Piano 2002, l'uscita di questo album che recupera queste composizioni tra gli anni 50 e 60, le primissime di Christian Wolff. E andiamo a chiudere invece con un'opera uscita nel 2013, dunque estremamente recente, ma in realtà sono composizioni molto molto precedenti di un autore che è stato sicuramente dimenticato e si sono perse le tracce, ma è stata la capacità di alcuni appassionati musicologi e musicisti che hanno cercato di recuperare questo autore, Dennis Johnson, che recupera e porta avanti un discorso tra gli anni 60 e 70 molto vicino al minimalismo della Monte Young, e queste composizioni sono state, diciamo, recuperate e rimesse proprio su disco con ben quattro CD che fanno parte di questo album November, uscito per la Penultimate Press nel 2013, con diciamo la supervisione di Dave McIntyre, Mark Harwood, Michelle Alan McIntyre, e al piano troviamo Andrew Lee, che riporta con un tocco sicuramente magico e particolare l'interpretazione delle composizioni di questo Dennis Johnson, che è stato recuperato. Ce ne sono tantissimi di autori, anche Stefan Schleiermacher, pianista che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Erik Satie, ha fatto un lavoro incredibile di ricerca di autori scomparsi, di composizioni perse nel tempo, riportando alla luce dei veri e propri capolavori. Anche questo lavoro di Dennis Johnson, elaborato in ben 4 opere, in 4 composizioni, riesce perfettamente a dare l'idea di questo grande autore. Ci andiamo ad ascoltare proprio un frammento, essendo delle composizioni lunghissime. I 4 CD sono composte da un'unica composizione di circa 70-75 minuti l'uno. Andiamo ad ascoltare un frammento per chiudere questa puntata in maniera sicuramente suggestiva e magica. Io vi aspetto chiaramente per 451 frammenti, scusate, 451 intersezioni tra 2 settimane, dunque esattamente nel lunedì, che sarà lunedì 8 giugno, sempre dalle 20 alle 21. Lunedì prossimo non ci saremo, e vi ricordo ovviamente 451 frammenti sonori mercoledì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko, da mezzanotte alle 2 circa. Vi lascio ovviamente a Dennis Johnson e alla programmazione di Radio Città Fujiko. Buonanotte.